Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Quando chiudo gli occhi vedo solo te ed io ti sento in me. Credo di capire che cos'è per te, cosa vuol dire per te, che senso ha per te l'amore mio. Quando apro gli occhi e tu non sei con me, mi sento sola. A me personalmente già vengono le rughe nelle parti innominabili, però questa è una canzone bellissima di Charles Aznavour, la canta Milva, è diciamo la colonna portante di un film importante con Annie Girardot, Morire d'amore, che è una storia struggente di una professoressa, una storia degli anni 70 mi pare, innamorata di un suo allievo, ebbe vari problemi per questo e alla fine si è suicidata a Marsiglia, una grande storia d'amore. Questa colonna sonora è la colonna ispiratrice portante di un libro che parla di quando l'amore finisce, come cambia il matrimonio in Italia, vi dichiaro divorziati. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Cosa c'entra la canzone d'amore con un film, con un libro che parla dell'amore che finisce? Ma parlo anche di amori che nascono, anche di infedeltà. Spesso rompono un matrimonio ma fanno sorgere altri amori, gli amori proibiti, che forse sono gli amori che andrebbero tutelati di più, sembra strano, eh? Ma io ho conosciuto grandi amori proibiti che poi sono sfociati in amori per la vita. Per cui molte volte cambia anche il modo di giudicare le cose, spesso il diritto va da una parte, la vita e l'amore vanno dall'altra. Ecco, voi sarete abituati a considerare, a parte Gianetto Regassani, ormai lo conoscete come ospite nostro ricorrente, l'avvocato matrimonialista con una sorta di Dracula con i denti accuminati, pronto a succhiare sangue perché non chiede di meglio che le persone litighino, vogliano separarsi, divorziare, per lui su questo lucra. Gianetto Regassani, che è anche presidente dell'Associazione Italiana Avvocati Matrimonialisti, ha scritto il suo nuovo libro Vi dichiaro divorziati, editore Imprimatur, che è un libro molto strano e singolare. Parla in realtà di quello che è l'esito attuale concreto dell'unione matrimoniale. Nessuno lo dice, c'è chi lo difende in maniera ideologica, chi lo attacca in maniera altrettanto ideologica, ma questa sorta di quacervo, di assemblaggio di esseri umani che iniziano una vita assieme per un impulso amoroso, poi l'amore, come si dice, si trasforma nel tempo, l'amore può insorgere altrove, altri amori possono inquinare l'amore di base, insomma. Tutto questo lo racconta proprio un avvocato matrimonialista, che non soltanto ha i codici in mano, ma probabilmente ha una capacità di introspezione e di lettura delle persone, si trova davanti alla sua scrivania che gli chiedono fra noi è finita, ci dia gli strumenti perché finisca la migliore delle maniere, per capire cosa c'è al di là dell'aspetto giuridico. L'amore finisce, l'amore ricomincia, l'amore a me è un grande dilemma e oggi ne parliamo con un avvocato, tra poco, 800 24 00 24. Melog, Cronache Meridiane. Il tema, già ve l'ho detto un istante fa, lo sapete benissimo. Un'unione matrimoniale a un certo punto è qualcosa di non più sopportabile. Un amore nasce e cerca molte volte la sua evoluzione in un'unione matrimoniale. Gianetto Regassani, che ormai ha visto millanta coppie nella fase dello sfascio, allo stesso tempo ha visto il motivo dello sfascio, che molte volte è l'insorgere di altre storie, di altri amori, ci fa capire questa mattina dal suo punto di vista, un punto di vista non assoluto ma un punto di vista comunque informato, qual è il punto di attualità sul matrimonio. Un libro che ha già un titolo in sé che è ironicamente conclusivo rispetto a quello che sia oggi il matrimonio. Dice vi dichiaro divorziati, usa la formula rituale dell'ufficiale o del prete che sancisce l'unione fra due persone con esatta e perentoria maniera, vi dichiaro divorziati. Allora Gianetto, iniziamo con il primo capitolo di questo libro, poi andremo saltellando. Tu dici, fai una dichiarazione molto forte, di cui dovrai senz'altro darci ragione. Se ci fosse la diabolica possibilità di scoprire le chat segrete degli italiani su WhatsApp, in pochi minuti ci sarebbero morti e feriti. Sarebbe una tragedia nazionale, paragonabile a una vera e propria guerra civile. Verrebbe fuori un mare di messaggi e luci rosse, foto hard, poesie d'amore, segreti piccanti e corna da Bolzano a Trapani. Potremmo scoprire la signora del piano di sopra, tutta casa e chiesa, che ha mandato ai suoi interlocutori virtuali o reali tutto il proprio book fotografico con un improbabile perizoma e forse senza nemmeno quello. Ma ti rendi conto di quello che hai scritto? Sì, ma è questa la realtà, perché noi avvocati tocchiamo con mano proprio tutti questi fenomeni. Questi messaggi arrivano nei nostri studi, spesso e volentieri c'è la produzione di questi messaggi in tribunale, o quantomeno si viene a conoscere un'esistenza di un fatto, di una infedeltà. Lo sai perché ti dico questo? Ieri abbiamo fatto una trasmissione con una madre dedicata alla proposta dell'Unione Europea di limitare l'accesso ai social network ai bambini al di sotto dei 16 anni, e giustamente diceva qualcuno, dice, ma questi bambini cosa dovete limitare quando in famiglia i genitori sono i primi a farne un uso sconsiderato? Ma non c'è niente da fare, i social network ormai nel 30% dei casi sono sicuramente l'occasione che fa l'uomo ladro e anche la donna ladra, cioè è indubitabile, cercando di mettere da parte la italica ipocrisia che sui social network non si sta soltanto per fare affari. Ma assolutamente, che affari persone, si fanno altre cose. Ma sì, si cerca di colmare un vuoto di solitudine, d'amore, lo fanno gli uomini, lo fanno le donne indistintamente, oggi non c'è più alcuna differenza, per cui noi avvocati registriamo questo cambiamento radicale dei costumi che spesso poi sfociano in tribunale. Questi cambiamenti sono e spesso determinano la crisi di una coppia, quindi i giudici, gli avvocati sono i primi a cogliere i cambiamenti dei costumi e degli usi dei nostri italiani. Allora, dammi però una soluzione, questo me lo domando anch'io. È sempre stato così? C'è sempre stato nel sacro circolo matrimoniale comunque una possibilità di fessura percorribile, di via d'uscita, e oggi si sono in realtà concretizzate le mani chiunque le chiavi di accesso a questa fessura. Oggi è molto più facile, si conoscono molto più persone, e quindi l'istituto che era protetto soltanto da una sorta di convenzione comune, da leggi scritte con parole di fuoco nelle porte del cielo, in realtà sta scricchiolando. Ma le infedeltà sono sempre esistite, quindi non credo che siano i social network capelli determinati, diciamo che le facilitano, ma non è che 20 anni fa o 30 anni fa non succedessero le stesse cose. Probabilmente oggi non rischi più. Prima dovevi andare dall'amante, nasconderti, pedinarla. Oggi basta un sms, basta una mail, una chat e si risolve tutto. Quindi è indubitabile che il comune sentire è cambiato, e soprattutto anche la giurisprudenza sta cambiando. Oggi c'è molta meno severità rispetto al passato, anche quando l'infedeltà è provata, perché poi bisogna fare il distinguo se quella infedeltà è stata la causa o la conseguenza di una crisi già in atto. In pratica, spesso e volentieri, anche quando con i nostri investigatori privati portiamo in tribunale prove inconfutabili, non è detto che il traditore possa essere sanzionato con l'addebito. Quindi sta cambiando anche la giurisprudenza. Cioè, uno può dire il matrimonio già non esisteva più, e quindi è chiaro che io ho tenuto in piedi l'apparato esteriore, però io ho la mia vita, devo vivere la mia vita. E quindi questo però mi darebbe già l'idea che comincia a entrare anche nella giurisprudenza l'idea che l'istituto blindato, eterno, sacrale, comincia a fare un po' acqua. Dovrebbe essere qualcosa di diverso. Ma infatti io, dopo aver scritto I perplessi sposi, non potevo non scrivere Vi dichiaro divorziati, perché c'è anche un atteggiamento consumistico degli italiani rispetto al matrimonio. Ci si sposa anche un po' per moda, anche se l'istituto del matrimonio è crollato a picco dal punto di vista delle statistiche. L'Istat per esempio ha diramato dei dati che fanno pensare. Nel 2013 i matrimoni sono stati appena 190.000 a fronte dei 430.000 del 74. Ciò significa che questa istituzione invincibile, quella del matrimonio, in Italia non è più così, e probabilmente l'aumento delle convivenze, si parla di 1.200.000 convivenze nel nostro paese, ha determinato che cosa? Due Italie, due modi di interpretare il senso di famiglia, anche perché molte famiglie di fatto sono sovrapponibili a quelle di sposate. Nessuno lo sa, io ho un'infinità di amici che ho saputo dopo anni che non erano sposati, ma erano coppie a tutti gli effetti. Assolutamente. Mettono al mondo figli, pagano mutui, hanno una casa, sono famiglie a tutti gli effetti. Purtroppo il nostro legislatore non se n'è accorto, tant'è vero che queste famiglie non hanno alcuna tutela. Per cui abbiamo una, da Roma in su, un popolo di conviventi. Il fenomeno della convivenza da Roma in giù è più raro. Perché sono le madri, i padri. Il legislatore ancora non ha il coraggio di normare le unioni civili. Diciamo, da Roma in giù bisogna ancora rendere conto all'humus del clan, del fatto che una brava ragazza, anche se ha 50 anni, deve comunque portare un marito, un bravo ragazzo, per dimostrare che non ha qualche problema, deve comunque portare una moglie. Ma c'è una profonda differenza tra nord e sud, anche dal punto di vista dei numeri delle separazioni. Per esempio, nel nord, da Roma in su, su 1000 matrimoni ci sono 400 separazioni, da Roma in giù 200. Ciò significa che stiamo parlando di due Italie diverse. Non voglio dire chi sia meglio o chi sia peggio, ma basti pensare che se non ci fosse la Campania, non ci fosse la Campania e la Sicilia, veramente l'istituto del matrimonio sarebbe quasi estinto. Lo rimane ancora questa produzione industriale di matrimonio con invitati, con ricerca della chiesa, ricerca del luogo in cui si mangia, il menù, il viaggio di nozze, si programma tutto un paio d'anni prima. Ma basti pensare per esempio che a Milano il 70% dei matrimoni celebrati si celebrano al comune, soltanto il 30% in chiesa. A Roma addirittura c'è stato il sorpasso, ci sono più matrimoni, parlo di Roma, cioè la Mecca del cristianesimo. Roma è piena di finte chiese sconsacrate, la gente si va a sposare ma non c'è il prete. Ci sono, infatti, ci sono più matrimoni al comune che in chiesa, stiamo parlando di una città che ospita il Vaticano, quindi è tutto dire. Insomma, gli italiani non sono certamente quelli di 30 anni fa. Allora, 800 24 00 24, come avete vissuto voi il matrimonio, come lo concepite oggi, qual è la formula di soluzione, quello che dice Jacques Attali, la formula aperta, la formula che è una sorta di social istituzionale, capito? Come oggi accade che cancellate un amico da WhatsApp o da Facebook perché non vi sta più simpatico, la stessa cosa, cancellate la persona con cui avete vissuto una parte di vita, ma tranquillamente, perché? Perché ne acquisite un'altra. Elisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, la ringrazio per darmi la possibilità di fare questo intervento. Io sono follemente innamorata del matrimonio e mi sento fortunatamente... Ma è sposata almeno? Sono sposata da 10 anni e ho 2 figli e sono fortunatissima di vivere questa esperienza del matrimonio con gioia. Va bene, la mia testimonianza era per dire che... purtroppo lo Stato italiano, a differenza di altri Stati, per esperienza diretta, non incentiva ultimamente con le politiche il matrimonio. Mi riferisco a 2 esempi semplici. Gli sgravi fiscali, per esempio, per la prima abitazione per l'IMU, hanno portato diverse coppie di amici miei coetanei a fare una scelta di vivere in regime di convivenza e non di matrimonio per avere questa agevolazione. Vabbè, qual è il problema? Qual è il problema? Se si vogliono bene e stanno assieme, cosa cambia? Il matrimonio dovrebbe essere un valore per lo Stato perché indica un contratto di famiglia che dovrebbe portare a una maggiore tutela per i figli. Se si vogliono bene, perché uno che convive, che comunque si ama, gli conviene non sposarsi? Perché cioè dei vantaggi economici? Perché ancora, le rispondo io Lisa. No, le rispondo poi la Gassani mi conforta o mi contraddice. La mia lettura è questa, perché ancora c'è una sorta di ipocrita lettura sacrale del matrimonio. Lo Stato dice: se ti sposi devi sposarti per sempre, perché c'è uno Stato concordatario, perché sta scritto ancora lettere di fuoco nel cielo che se uno si sposa devi sposarsi per sempre. Se ci fosse una legge matrimoniale che permette dei patti prematrimoniali, non direbbe benissimo, ti fai un contratto con questa persona, hai tutti i diritti civili assicurati, ma al momento che vi siete scocciati ve ne andate ognuno per la sua strada, non che c'è questa sorta di tempo di riflessione, perché la regola dice dovete rimanere insieme, se poi voi in qualche maniera uscite dalla regola però dovete ripensarci. Gassani, cosa ne pensi? Non c'è dubbio che il matrimonio resti un valore e va difeso a tutti i livelli, ovviamente, però dobbiamo anche considerare che anche le altre famiglie che hanno messo al mondo figli hanno diritto comunque almeno a una tutela minima. Per esempio, io parlo delle coppie di fatto e soprattutto di tanti conviventi che vengono messi sulla strada da un momento all'altro, anche dopo 20 anni di convivenza, senza alcun diritto. Io credo che tutto questo non possa passare inosservato. Poi c'è anche un problema il problema economico che incide profondamente nel matrimonio, gli affitti sono elevatissimi, i mutui non vengono più erogati, ci sono tante ragioni per le quali la gente magari sceglie di non rischiare, però attenzione, si parla tanto di indissolubilità del matrimonio, di sacralità, ma vi rendete conto che oggi con la negoziazione assistita, con 16 euro, con la firma di un prestampato, un matrimonio salta in aria in 10 minuti? Sono d'accordo. Allora, di che d'accordo. Cosa stiamo parlando? Se sono d'accordo. Se sono d'accordo. Però questo significa che questo matrimonio che in qualche modo nessuno si cerca di salvare tutti in maniera gratuita, questo è chiaro alla fine. Però si è passati dalla sacralità del matrimonio ad una pratichetta amministrativa che si fa al comune, quindi voglio dire, per carità, mi sta bene, ma allora mettiamoci d'accordo, se il matrimonio è un'istituzione che in qualche modo ha la caratteristica della indissolubilità, oppure diventa un contratto da risolvere in un comune. Io credo invece che dovremmo accorgerci di altre famiglie, dovremmo accorgerci del fatto che ci sono anche coppie dello stesso sesso che hanno diritto ad essere in qualche modo tutelate. Noi non dobbiamo essere bigotti come sempre, noi abbiamo centinaia di migliaia di coppie dello stesso sesso che non hanno ancora una tutela, per cui parliamo dei diritti delle persone. Messa stretta l'etichetta dell'avvocato che fa separazione e divorzio, soltanto nel 10% dei casi, nel mio studio come negli studi che fanno diritto di famiglia, ci si occupa di separazione e divorzio. Noi ci occupiamo soprattutto di procedure che vanno a incrementare i legami, le adozioni, il trust, le successioni, cioè voglio dire, non c'è soltanto l'avvocato sfascia famiglia, siamo gli avvocati che cercano di dare i consigli giusti. Purtroppo quando arriva una persona che convive, che ha messo al mondo figli, e l'altro decide di chiudere quella relazione, non c'è la possibilità neanche di avere un diritto agli alimenti, cioè proprio la possibilità di sopravvivere. Tutto questo secondo me non è giusto, soprattutto dopo 10 o 15 anni di convivenza. Noi dobbiamo parlare di questo. Allora 800 24 00 24, ci fermiamo un istante, attenda pazientemente Fabio con una sua proposta che potrebbe scardinare questo sistema. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Questa è la canzone di Milva che fa sognare l'avvocato Gianetto Regassani, autore di Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia, edizione imprimato, libro che già sta spopolando nelle librerie italiane. Perché? Perché è il punto di vista del presidente dell'Associazione Italiana Avvocati Matrimonialisti, che vede ogni giorno centinaia di persone che vanno di fronte a lui a chiedere vogliamo interrompere la nostra unione, e vede anche ciò che c'è dietro. Avevamo lasciato in attesa Fabio. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie di avermi ospitato. Non dite sempre grazie, siete voi che fate un favore a noi. Adesso vi rivelo un segreto, scusate, piccola parentesi. Lei fa un favore a me perché mi fa, dà senso al mio esistere dietro questo microfono. Quindi voi date un servizio al conduttore e alla radio, quando telefonate dite cose intelligenti. Quindi ringrazio. Allora sono contento del fatto che la mia proposta abbia suscitato interesse. Qual è la sua proposta? Allora, io vengo visto come un pazzo già da qualche anno dai miei amici e parenti, perché propongo come cosa migliore in un periodo di estrema precarietà in tutti gli aspetti della nostra vita, il matrimonio a tempo determinato. ATD, a progetto. A progetto, 3 anni mi sembrerebbero addirittura un tempo congruo. Durante questi 3 anni. Ma rinnovabili oppure 3 anni poi? Rinnovabili, finiti 3 anni poi o ci si lascia come da buoni amici, altrimenti si va in comune, si mette una firma e si rinnova per altri 3 anni. Nell'arco di questi 3 anni bisogna essere rispettosi di quelli che sono i diritti e i doveri coniugali, di assistenza, di fedeltà, eccetera eccetera. Gli avvocati matrimonialisti potrebbero continuare a lavorare, perché se nell'arco dei 3 anni uno dei due coniugi dovesse poi incorrere in qualche errore, pagherebbe, ma per quei 3 anni, non per intera vita. No, anche perché uno poi se c'ha dei problemi tiene duro un anno e mezzo, cioè vabbè, tiriamo avanti un anno e mezzo. Fra un anno e mezzo è tutto bello che è finito. Si organizza per un nuovo lavoro. Vediamo un po', Gianetto Regassani, sembra una butad, ma è percorribile la strada di un contratto matrimoniale, non dico a tempo determinato, in cui poi si stabiliscano alcune regole? In Italia è proibito dalla legge. Sì, e i patti prematrimoniali non sono consentiti. Diciamo così, è suggestiva questa proposta, ma la vedo molto lontana rispetto alla nostra mentalità giuridico-giudiziaria. Però onestamente si potrebbe anche discutere, ma insomma non, francamente, in Italia una cosa di questo tipo farebbe veramente scalpore. No, sarebbe orrore, tutti direbbero è una forma di prostituzione, figurati, per tre ci anni ci sarebbe una guerra in Parlamento. Sì, sarebbe, purtroppo non possiamo avere un approccio laico a questo problema. Fabio, fattene una ragione, gioca magari con qualche amica lì, facciamo finta, facciamo, la gente fa i contratti sadomaso di schiavitù, tu puoi farlo anche un contratto d'amore per tre anni, tanto poi se tradisci il contratto non ti corre dietro nessuno. Lorenzo. Sì, buongiorno, sono Lorenzo. Sì. Buongiorno. Io penso, lasciando stare il fattore religioso, io penso che il matrimonio è un contratto dove si dice: caro Stato, io e mia moglie ci sposiamo, vogliamo diventare una famiglia. Con questo atto abbiamo dei diritti e abbiamo soprattutto dei doveri. Adesso io non capisco quelle persone che vogliono avere gli stessi diritti di, una coppia sposata, ma non vogliono avere gli stessi doveri. Perché come nel mondo del lavoro, che diceva prima l'ascoltatore prima di me, adesso tutto, nessuno vuole prendersi responsabilità. Ma qual è il dovere che non ha la coppia di fatto, se fosse legalmente riconosciuta, rispetto a una coppia? Il dovere è che se io prendo, dopo mi sposo, vado con un'altra, se sono una coppia di fatto, io dico al mio compagno, mi prendo, va bene, amici come prima, punto, punto a capo, ognuno ha la strada. Questo fa parte dei diritti, poi lo diceva anche Giannetto Regassani, uno, se la coppia di fatto ha un'interruzione, nessuno è tutelato di chi rimane col cerino in mano, no? Questo è il senso. No, non è che no, nel senso è un diritto, cioè nel senso è un dovere, cioè se io mi sposo ho anche un dovere verso l'altra persona della coppia, verso mia moglie. Sì, di mantenimento, no, di tutto. Di mantenimento e tutto il resto, perché sennò ognuno deve fare quello che vuole. Cioè, il fatto qua di fondo è che adesso ormai nessuno vuole prendersi responsabilità e nessuno vuole prendersi impegni. Vabbè, ma cioè, uno si può tenere una scarpa rotta, nel cuore, se non gli va più, è responsabilità. Non va più, prende e divorzia. Esattamente. Punto, chiuso. Ma lo siamo d'accordo. Appunto, allora ci sposiamo e poi se non va bene divorziamo, ma se avere gli stessi le coppie di fatto, perché non si sposano? Sì, perché non è che non si sposano, perché non c'è una legge che dia loro la stessa tutela del matrimonio. Giannetto. No, ma si fa una grande confusione. Qua non vogliamo creare un doppio nel matrimonio. Il matrimonio resta sicuramente l'istituzione più importante per mettere su famiglia, su questo non si discute. Stiamo parlando di altro, stiamo parlando di un principio di solidarietà. Ci sono delle coppie di fatto che stanno insieme per 20 o 30 anni. Ora, se l'altro è una canaglia che mette alla porta la propria convivente dopo tanti anni, credo che un minimo diritto alla sopravvivenza, questo debba essere garantito a prescindere. Questo non significa che quello sia un assegno di mantenimento identico a quello che si calcola nei divorzi, ma credo che non è anche possibile pensare di vedere gente sotto i ponti. Ci preoccupiamo dei cani abbandonati sull'autostrada e non ci abbandoniamo soprattutto di tante donne mandate sul lastrico perché magari vengono rottamate da uomini d'affare che una volta che sono diventate anziane le mandano via. Io ho tantissimi casi di questo tipo, io ho tantissime donne soprattutto che vengono ai nostri studi e vengono a dire: abbiamo fatto le serve a questi uomini, abbiamo ammesso al mondo i figli, adesso siamo state cacciate di casa, noi praticamente siamo la mensa dei poveri. Credo che quando ci sono tantissimi anni di convivenza si è creato un sodalizio familiare, ecco, sovrapponibile. Non è un'amichetta che uno ci va a fare il weekend, persone che vivono insieme è un modo sbrigativo di fare dei distinguo che non hanno alcun senso. Qua non si sta discutendo del rivale del matrimonio, si sta parlando di un principio di solidarietà che in uno stato di diritto non è negoziabile. Soprattutto una presa d'atto che esistono anche altre situazioni. Assolutamente. E lui fa finta che non esistano. Antonio, buongiorno. Antonio? Sì. Senta, io vorrei portare il mio pensiero, la mia esperienza. Io sono sposato felicemente da 18 anni e ho 44 anni di età. In questi ultimi 20-25 anni, i miei amici, coetanei e quant'altro, ho visto un cambiamento, una trasformazione ideologica del matrimonio. Mm. In che senso? Oggi, anche se i matrimoni, come giustamente dicevate, sono molti, molti di meno, sono veramente la maggior parte fatti per scelta, sentiti ed è una scelta delle due persone che decidono effettivamente. Ma questo dove l'ha letto, scusi Antonio? La sua esperienza per scelta. Esperienza. Sì. Invece tanti miei amici 20 anni fa, 25 anni fa, 30 anni fa, quando io ero un ragazzetto, cioè era, c'era l'incubo del matrimonio, si convolava a nozze perché non era considerato, come lei giustamente in un certo senso diceva prima, a una certa età, se non si era sposati, se non si metteva su famiglia, c'era una sorta di anormalità. Ti guardavano con sospetto, c'è qualcosa che non va in quell'uomo, a 50 anni non... C'è qualcosa che non va, per l'uomo e per la donna, quindi in effetti... A una certa età il matrimonio era una tappa obbligata, bisognava sposarsi. Lei di dove è? Di dove è, Antonio? Della provincia di Latina. Di Latina. Molte volte anche le famiglie avevano questa sorta di imperio, sì, perché non si sposa, soprattutto non... le famiglie, soprattutto si sposa per papà e mamma, per far contenti i genitori, i perplessi sposi. Invece adesso perplessi sposi, il tuo precedente libro. È una scelta, adesso è una vera e propria scelta, cioè si arriva al matrimonio per scelta, non perché ti è condizionati come 30 anni fa, come 40 anni è fa. È chiaro, allora Gianetto Regassani, vediamo un po', rispondendo Antonio da Roma, che c'è questa cosa, c'è un capitolo nel tuo libro che è il capitolo 7, Bottino di guerra, sì, in cui viene spiegato sinteticamente qual è, diciamo, il vero ostaggio di questo istituto che stiamo eviscerando e stiamo trattando. Chi sono il bottino di guerra nel matrimonio? In questa fase di passaggio in cui non abbiamo ben capito cosa sia del vecchio matrimonio e non abbiamo ben definito cosa vogliamo fare delle nuove unioni. Ma nel mio libro Vi dichiaro divorziati io pongo l'accento più volte sul bottino di guerra, che sono i figli. Io sono molto preoccupato ancora oggi per questa mentalità di contendersi i figli come se fossero degli oggetti, un'arma da usare contro l'altro. È un fatto molto molto grave. Purtroppo vedo che, nonostante i richiami anche del grande Papa Francesco, che secondo me è il più grande rivoluzionario di questo momento, vedo che in tantissime separazioni ancora oggi, nonostante la mediazione familiare che ancora non ha preso piede, nonostante i continui richiami anche nei film, nei romanzi, nella cultura sociale, i figli sono ancora un bottino di guerra e spesso devono intervenire i servizi sociali, i servizi psicologici. Vedo tanto dolore. Questo significa che il diritto di famiglia ancora non è riuscito anche a sanzionare in maniera adeguata determinati comportamenti, perché all'estero, per esempio, quando si violano certi patti sull'affidamento, c'è addirittura la galera. Allora voglio dire, qua dobbiamo cominciare a pensare che al di là degli assegni di mantenimento e delle case, la prima questione che va risolta nelle separazioni e divorzi è la gestione serena dei figli. I figli non sono di proprietà né dei padri né delle mamme. L'affidamento condiviso in Italia è ancora un consiglio, è semplicemente un'etichetta, ma di fatto quasi mai viene applicato, e questo è un fatto molto grave, perché crea orfani di genitori vivi, quasi sempre i padri, e anche di questo dobbiamo parlare, perché negli altri paesi l'affidamento condiviso è una cosa seria. Nel nostro paese è semplicemente una formuletta che si appone a un provvedimento, ma di fatto uno dei due genitori esce dalla scena della vita dei figli, in contraddizione con le convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo che l'Italia ha ratificato. Quindi siamo un paese mammone, su un binario morto del diritto di famiglia in Europa. Siamo un paese patetico e ridicolo da questo punto di vista. Il mammonismo, che è la versione distorta dell'affetto è la tragedia filiale, sociale, è una tragedia sociale, perché tu la trovi, quindi lo stato mammone dice affidiamo i bambini alla mamma. Oggi un uomo quarantenne, diciamo una percentuale, non so, 20%, 30%, vive con la madre un rapporto incestuoso, addirittura puista morale. Cioè la vera donna di molti uomini è dal 75 in poi, da quando hanno fatto fuori la figura paterna, è la madre. Tant'è vero che le mogli disperate vengono ai nostri studi e ci raccontano dei fatti incredibili, cioè di questo figlio che sta a contatto telefonico continuamente con la mamma dalla mattina alla sera, che fa paragoni su chi fa meglio il ragù, e la mamma entra in casa e sceglie i colori delle tende dell'appartamento. C'è una situazione, proprio una piaga sociale, anche per colpa delle mamme, anche per colpa delle donne che ci hanno messo lo zampino nell'aver fatto fuori la figura paterna e si è diventate le madri padrone di questi uomini mai cresciuti, mai svezzati, che adesso poi la fanno pagare ai loro mogli. È tutta una questione diabolica che andrebbe risolta. 800 24 00 24, ci fermiamo un istante, prendete fiato e fra un po' riprendiamo. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, se potessi personalmente, me ne prendo la responsabilità, dedurre una formula risolutiva nel libro Vi dichiaro divorziati di Gianetto Regassani, da questi giorni in libreria, è: donne, sceglietevi un uomo orfano. L'uomo orfano di madre è probabilmente il migliore dei mariti. Sei d'accordo, Gianni? Beh sì, beh, insomma, volendo estremizzare, sì. Diciamo che ci sono tantissime suocere che sono delle risorse per le famiglie, ma purtroppo dobbiamo dire che il 30% delle separazioni in Italia viene per colpa dell'ingerenza dei genitori di lui o di lei. Sì, ma è meglio fare, meglio fare un po' di straordinario e pagarsi una badante, esatto, che sopportare la suocera. È un mal costume vergognoso di questo paese, il fatto che i genitori non riescono a capire che i figli, quando si sposano, mettono su famiglia a tutti gli effetti, non bisogna più intervenire, interferire, invece continuano con questo mal costume italiano. Non ti fai vivo, non mi chiami, no. Non sei più come prima. No, poi soprattutto il ricatto, genitori che aiutano e sostentano i figli che si sposano in maniera economica, è una maniera per poi pretendere un'attenzione, un'affettività presunta e soltanto formale per tutta la vita. Come? Ti ho aiutato a comprare la macchina e adesso ti dimentichi di salutarmi, di telefonarmi. È un ricatto eterno. Ma infatti io devo dire che appunto si creano delle situazioni incresciose, perché voglio dire, un marito che continuamente fa paragoni tra la moglie e la madre, è uno da mandare in tribunale, dallo psichiatra, immediatamente, perché se questo deve essere il motivo per mandare all'aria un matrimonio, sei un pazzo, e tua madre è una persona che ha una responsabilità enorme anche nella sofferenza dei nipoti. Voglio dire, tutto questo va discusso, perché quando si parla delle ragioni di fondo che determinano le crisi dei matrimoni, state tranquilli che sicuramente una delle principali è questa, non tanto le infedeltà coniugali che oggi quasi quasi vengono accettate sportivamente, ma soprattutto l'ingerenza dei suoci di lui o di lei. Credo che su questo l'Italia debba cambiare radicalmente, al nord come al sud. Guarda, mo dico un'altra bestialità per cui sarò fucilato: ci sono madri che ancora pretendono indirettamente di controllare e censurare la sessualità di figlie sul filo della menopausa, che ancora la mamma gli dice: ma cosa fai, dove vai, perché non ti trovi un uomo, e via dicendo. Antonio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io trovo molto interessante quello che dite e lo condivido appieno. Anzitutto portare la testimonianza del fatto che io e mio compagno siamo insieme da 12 anni. Una coppia di fatto siete. Una coppia di fatto, e di fatto c'è proprio la necessità di creare nuovi istituti, cioè nessuno è contro la madre, perché sembra sempre di essere uno stato di qualche livellino. Ecco, ma voi ad esempio fate le spese assieme, i mutui assieme, il vostro potere d'acquisto viene condiviso in maniera equa, come fosse una coppia regolarmente sposata. Esatto, e quindi c'è la necessità di creare appunto nuovi istituti che si affianchino al matrimonio. Invece io trovo, da parte delle persone sposate e anche in una persona che ha chiamato prima, quasi una gelosia per coloro che non si sono sposati, mentre chi si è sposato è stato quasi costretto, come dicevamo prima. Eh sì, lo sa che è il complesso della graticola. Dice: io sto sulla graticola, soffro, mi rodo l'anima e mi rosico. Questi qua belli, certo, tranquilli, stanno fuori e vogliono gli stessi nostri. Io non la penso così, per me è indifferente. Però, basta. Io quello che dico, la necessità di legiferare c'è, anche creando istituti alternativi o che si affianchino, senza andare contro il matrimonio o distruggere il matrimonio, che comunque ha una sua logicità. Un'altra cosa volevo dire, è molto corretto quello che dite voi sulle madri. Io le porto il mio esempio nella mia vecchia storia, in precedente, con cui sono stato 6 anni, la madre di questo ragazzo faceva i confronti con me, come stiravo, ma io dicevo: guardi che stiravo. Quindi succede anche agli uomini, questo è il paradosso. Questa storia mi mancava sul mio libro. Questo è, se avessi saputa prima, è un appendice del libro, sì, di Gassano. Assolutamente. Cioè la madre diceva: il compagno di mio figlio non stira bene le camicie come le stiro io. No, in più pretendeva che il figlio portasse le biancherie, abitava fuori Milano, io allora abitavo a Milano perché sono di Milano originario, che portasse la biancheria a casa della madre, pretendeva che lei portasse la biancheria, e quando io ho detto: no, abbiamo la lavatrice, abbiamo la casa, ma perché dobbiamo portare... Voleva controllare le macchie di leopardo sulle mutande del figlio, che vatte la pesca, probabilmente questo. Iniziava a piangere, c'era il ricatto. Io su questa cosa dei genitori... Compagno poteva anche metterci un pochino più di determinazione e fare un simbolico parricidio e uccidere la madre, perché sennò... C'era messo, ma è stata una lotta, cioè non è stata così per gameplay riuscire a... No, è interessante che nell'evoluzione e nell'uscita, diciamo, allo scoperto delle forme alternative a quella tradizionalmente considerata come unica di rapporto amoroso, viene fuori comunque le madri, alla fine sono molto più laiche di quello che pensiamo. L'importante è mantenere il controllo delle palle del figlio in ogni momento, poi come sia uomo, donna, multiplo, animale a cortile, non gli interessa, l'importante è che il loro pupattolo sia sempre sotto controllo. Grazie, Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Sì. giusto portare, diciamo, la mia esperienza, nel senso che io ho vissuto la separazione con le vecchie normative e abbiamo speso io e la mia ex moglie, avendo un avvocato insieme e facendo la separazione consensuale, un migliaio di euro. Successivamente il divorzio che abbiamo fatto l'estate scorsa e ci è costato 16 euro. Io l'ho visto, diciamo, la cosa che volevo dire è che il fatto di aver, ci avevano chiesto 2000 euro più IVA. Sì, andiamo al punto. Il punto era che il fatto di spendere poco non l'ho vissuto come uno sminuire né nessuna sacralità o il percorso. No, ma per noi non c'è nulla di sacro in questo momento. Diceva Gassani, semplicemente avete fatto tante storie, poi alla fine per separarsi bastano 10 minuti. E questo, Gianni? Sì, infatti, può costare anche 8 euro, non è questo il punto. È che si parla di ancora oggi di sacralità del matrimonio, poi alla fine è diventata una pratichetta in molti casi, per carità. Però, sta bene così, guardi, sta bene così. Volevo aggiungere solo questa cosa. Sì, veloce. I 3 anni richiesti per avere il divorzio, che poi diventano 4 perché i tempi dei tribunali erano mostruosi, eccetera. Nessuno mi ha chiesto 3 anni prima di sposarmi di fare un percorso per arrivare al matrimonio consapevole, eccetera. Quindi a questo punto bisognava chiedere alle persone prima di sposarsi di fare. Sì, vabbè, ci manca pure adesso. Ci manca adesso il corso prematrimoniale laico, ma non scherziamo, Gianetto. Cioè, come uno va in parrocchia per fare il corso per preparazione, non ci manca pure che non sono previsti. Ci chiami il sindaco e ci dica preparatevi al matrimonio. Non sono previsti, ma credo che la gente prima di sposarsi dovrebbe innanzitutto vedere se ama l'altra persona, perché io quando ho scritto i perplessi sposi ho spiegato di un'Italia che si sposa ancora come una volta, cioè semplicemente perché l'orologio biologico sta dicendo che siamo quasi fuori di tempo massimo o perché diventa una convenzione, quindi ancora oggi c'è questo atteggiamento. Ma si ha l'impressione di sprecare il proprio tempo amoroso se poi non c'è l'esito matrimoniale, questo andrebbe un po' scardinato. Io credo che un percorso di preparazione al matrimonio si potrebbe anche ipotizzare nei matrimoni non in chiesa, perché credo che comunque sarebbe opportuno conoscere i diritti e i doveri. Io ho scritto un libro. Sì, giustamente giuridico, igienico-sanitario. Lo sai perché ho scritto Vi dichiaro idraulico meccanicistico, ma non certo sull'istituzione. Sì, io ho scritto Vi dichiaro divorziati perché questa è una sorta di corso prematrimoniale, cioè io faccio capire in italiano e non in avvocatese Che cosa è il matrimonio? Che cos'è un'unione di fatto? Quali sono i diritti e quali sono i doveri? Scritti in italiano. Tu consiglieresti di regalarlo a un fidanzato o una fidanzata sotto l'albero? Questi libri vanno letti prima di fare il grande passo, non dopo. Dopo è troppo tardi, poi vai dall'avvocato. Regalatelo alla mamma, voi che siete fidanzati, vi dicono sposatevi, che bello, farei felice i tuoi genitori, ci togli questa spina del cuore. Regalateli il libro di Gassani, poi vedete. Ma cosa precisiamo succede. Una cosa, quando parlo di suoceri parlo sempre di quei matrimoni che vanno a male, perché poi ci sono anche tantissimi suoceri che mantengono ancora i figli. Attenzione, sono suoceri che pagano ancora il mutuo ai figli, che tengono i nipoti, che fanno i nonni sitter, cioè non vorrei assolutamente essere frainteso, dico che quando si arriva al tribunale si scopre che il 30% di queste separazioni hanno lo zampino della suocera. Vi dichiaro divorziati, Gianettore Gassani, mi direte poi cosa è successo, se l'avete fatto leggere alla suocera. Alla prossima.